Friuli nel mondo. 128esima trasmissione dedicata agli emigrati. Il Friuli canta. Ora sui monti, sui colli, nelle pianure del Friuli ferve il lavoro. La primavera è nella sua pienezza e l'anima friulana, lieta e serena, apre le sue labbra al canto, che è la più pura e più semplice poesia del Friuli. Le villotte sono eseguite dal coro di San Lorenzo di Sedegliano, diretto da Leandro Plenizio. Ore di Gnot è una villotta di Barbacetto, musicata da Mario Macchi. Pure di Mario Macchi, su testo di Ercole Carletti, e questa composizione dal titolo Oplalele. Oplalele nel ciantose, e volim far volta no. Oplalele, oplalele, oplalele, oplalele. Se il pilote morbidose, che da su dal corvaios, o vaiote passionose, sospirare. Chantose, e volim par volta no. O planelile, o planelile, o planelile, o planelile. Il chantà sol nos console, dagli frusi, dai pensis, e nos parte sole sole, dal marrum di dolciulis. O planelile, in pas vole, e da dove strolica. L'Agnol dal Cistiel è stata musicata da Ottavio Paroni su versi di Siro Angeli. Mostrate il fuego, al fin se va. dello stesso Paroni e la villotta «A mi baste un fil di lune» su versi di Novella Cantarutti. Ed infine un omaggio ad Aquileia, figlia di Roma. Il Ciante di Aquilee, di Enrico Fruch, musicato da Oreste Rosso. Canta il coro di San Giorgio di Nogaro, diretto da Bruno Sebastianutto. Oh. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.